Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Barry Lyndon. C'è un tema che, volenti o nolenti, noi siamo costretti a dibattere quasi per tutta la nostra vita. E il tema è l'uomo che fa le circostanze o sono le circostanze a fare l'uomo? Cioè, siamo artefici del nostro destino o viviamo, come dire, subendo qualcosa che è già stato scritto? Beh, ne hanno parlato filosofi, sociologhi, storici, e nessuno in realtà è riuscito a venire a capo di questa questione. Probabilmente la questione è senza soluzione. Non so, si dice che il treno della fortuna passa per tutti nella vita almeno una volta, e però è anche vero che bisogna avere il cuore, bisogna avere il fegato per salire su quel treno, bisogna vedere quali sono le circostanze. Insomma, è un tema veramente troppo complicato e noi ovviamente non pretendiamo di avere la nostra risposta a questa domanda, a questo quesito storico dell'umanità. Però noi le storie le raccontiamo, facciamo per lavoro, ma soprattutto per piacere, quelli che approfondiscono le vicende umane, non solo per raccontarle, ma anche magari per riuscire a comprendere meglio noi stessi attraverso l'esperienza degli altri. Bene, oggi noi vi parliamo di un uomo particolarissimo che nel bene e nel male ha sempre scelto con la sua testa, è stato artefice del suo destino, anche se alla fine questo destino si è voltato contro di lui. È stato un destino avverso, e è stato avverso in realtà proprio a causa delle sue scelte. Oggi noi vi raccontiamo le rocambolesche, incredibili avventure e anche sventure di Redmond Barry, irlandese, povero di nascita. Il nome non vi dirà molto, però diventerà famosissimo nell'Inghilterra della metà del Settecento quando acquisisce il cognome della nobildonna che prende in moglie. Insomma, il nostro protagonista di oggi è l'avventuriero, gaglioffo e gentiluomo Barry Lyndon. Barry era una di quelle persone abbastanza furbe da impadronirsi di una fortuna, ma incapaci di conservarla. Infatti, le qualità e le energie che portano un uomo a conquistare una fortuna sono spesso le stesse che lo portano poi a perderla. Ecco, in questa breve ma acuta descrizione c'è tutta la vicenda complessa e lunghissima di Barry Lyndon, che è un antieroe per certi versi, però è uno che vuole scalare la società settecentesca, che è corrotta, è sleale, è meschina a suo modo, è un arrampicatore sociale, è un Bellamy arrivato un secolo prima. È un uomo che si muove in un contesto dove il rispetto per la ricchezza e per la nobiltà o la posizione sociale è esasperato, è esagerato. E riesce lui a salire i gradini grazie alle sue doti, che sono eccellenti, però naturalmente presta il fianco a dei risvolti particolari, inaspettati, che lo travolgeranno anche in un vortice di sentimenti molto diversi tra loro. Beh, la vita incredibile del nostro protagonista si può dividere tranquillamente in due grandi parti, perché c'è un momento estremamente avventuroso che lui vive col nome borghese di Redmond Barry, e poi c'è la seconda, che è la seconda parte della vita, carica di intrighi, di drammi, e lui lì questi intrighi e questi drammi li conosce con il titolo nobiliare di Barry Lyndon. Tutto inizia in un piccolo villaggio irlandese. Siamo verso la metà del Settecento, si sta svolgendo la guerra tragica dei sette anni. Da un lato ci sono il regno di Gran Bretagna, di Prussia e di Portogallo, dall'altro il regno di Francia, gli Asburgo e l'impero russo. È un conflitto terribile che Winston Churchill definirà la prima vera guerra mondiale. Redmond Barry è un giovane irlandese nato in una famiglia del ceto medio decaduta per la morte del padre avvocato che viene ucciso in duello, e lui è solo con una madre vedova che ovviamente si barcamena, cresce povero, bello e scapestrato, diciamo così, è interessato fin da piccolo all'altro sesso, appena in grado di capire qualcosa si innamora, per esempio si innamora di sua cugina Nora Brady. Nora, un po' più grande di lui, ragazza volubile, leggera, che ama farsi corteggiare se nel suo villaggio arriva qualche reggimento militare, insomma è una donna un po' leggera, e Redmond ovviamente soffre perché lei si disinteressa di lui alla prima occasione, diciamo, sociale, quando non ci sono soldati in giro, invece lei si diverte a provocare il cugino, ci sono donne così in natura, il cugino che chiaramente è invaghito di lei, ma è anche molto ingenuo. Ho tolto il nastro che avevo intorno al collo e l'ho nascosto sulla mia persona. Se lo trovi, puoi tenerlo. Ti permetto di cercarlo dovunque tu voglia. Sarò molto delusa di te se non lo troverai. Non riesco a trovarlo. Non hai cercato bene, però. Non lo posso trovare. Ti aiuterò io. L'ho trovato finalmente. Perché tremi? Tanto il piacere di averlo trovato che tremo. Bugiardo. Già, Nora sta giocando con Redmond, eccita le sue fantasie, però tutto finisce lì. Lui si è costruito delle aspettative su di lei, la ama, si crede riamato, e invece Nora là c'è una relazione con il capitano John Quinn, e Redmond ci rimane male, anzi direi che si dispera, e la sua disperazione poi si trasforma in odio per il rivale. Il giorno del fidanzamento lui affronta il capitano, lo sfida a duello, e contrariamente al pronostico che vedrebbe favorito il militare, Redmond alla meglio lo ferisce a morte. In realtà non esistevano gli estremi per un duello regolare, insomma siamo ai bordi, ai margini della legge, e allora Redmond fugge a Dublino per non essere magari condannato per omicidio, e iniziano da qui le sue incredibili avventure, e il destino già lo fa partire, diciamo, con una disavventura a causa di una donna, e sarà una costante della sua vita, sia di quella di Redmond Barry che poi anche di quella di Barry Lyndon. Insomma, le donne avranno un ruolo determinante, purtroppo spesso drammatico, però per il momento abbiamo davanti a noi solo un ragazzo che non è poi così tanto dispiaciuto di partire. Nessun ragazzo di 16 anni è mai molto triste quando gode per la prima volta della sua libertà, per giunta con 20 guinee d'oro in tasca. Cavalcai via, lo confesso, pensando non tanto alla mia dolce madre rimasta sola, né alla casa natale che mi lasciavo alle spalle. Pensavo all'indomani e alle meraviglie che mi avrebbe portato. Ero consapevole e felice di avere il vasto mondo, per così dire, aperto davanti a me. Parte Redmond, parte alla volta di Dublino, ha in tasca tutti i risparmi della madre, però è un ragazzo ingenuo, diventa subito preda di due briganti che lo derubano di tutti i suoi averi, lo lasciano anche senza un cavallo, insomma è squattrinato, appiedato, arriva in un villaggio dove c'è un ufficiale che sta arruolando soldati per l'esercito britannico, e lui non ha scelta, non ha nessuna prospettiva, non può tornare a casa, insomma deve arruolarsi, anche se è evidente da subito che la vita militare non fa per lui. La madre, anche se era povera, era riuscita a non fargli mai mancare niente, insomma è un ragazzo viziato, il rancio gli fa schifo, c'è sporcizia, si lamenta in continuazione, e i suoi compagni lo prendono di mira, lo bullizzano, lo prendono in giro, lui peraltro è una testa calda, non ha paura di niente e di nessuno, quindi fa pugni anche con quelli più grossi, vince sempre perché è più scaltro, lui oppone alla forza bruta la sua intelligenza acuta che anni più tardi lo porterà fino alla vetta dei ranghi sociali privilegiati. Redmond Barry è destinato a fare una scoperta che cambierà la sua visione del mondo, che modificherà anche il suo spirito patriottico che aveva fatto capolino in lui comunque una volta che lui si era arruolato, perché per puro caso scopre che quel duello, il duello col capitano Quinn che lui pensava di aver ucciso, quel duello era stato tutta una farsa. Lui non aveva affatto ucciso il militare, gliel'avevano fatto credere per liberarsi di lui. La sua pistola era caricata a salve e la cugina aveva architettato probabilmente tutto per poter sposare indisturbata il suo fidanzato. Per Redmond questa scoperta è una doccia fredda, non tanto per la cugina della quale lui insomma si era già dimenticato, ma perché per la prima volta capisce cosa sia l'intrigo, di cosa siano capaci le persone pur di raggiungere i loro scopi. C'era gente della quale lui si fidava ciecamente, i suoi cugini che erano i fratelli di Nora, che avevano fatto da padrini del duello finto, insomma l'avevano ingannato, l'avevano costretto alla fuga, l'avevano spinto a abbandonare la madre, a lasciare tutto per una colpa che lui non aveva commesso. E poi disprezza il capitano Quinn, che era stato codardo per affrontarlo da uomo, e stende a tutti i militari questo suo sentimento di repulsione. Insomma, decide di disertare e l'occasione arriva quasi subito. Ruba la divisa e i documenti di un ufficiale incaricato di recapitare un messaggio importante al generale Percival Williamson a Brema. Redmond arriva lì e il territorio è controllato dai prussiani, che sono le ma sono comunque un altro esercito, lui non è conosciuto, è convinto di passarla liscia e forse ci riuscirebbe anche se non commettesse una leggerezza, e la leggerezza è quella di perdere un sacco di tempo, ovviamente, neanche a dirlo, con una donna. Entschuldigen Sie, Fräulein. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Sprechen Sie mia lingua? Sì, un poco. Non ho mangiato niente, tutto quanto il giorno, né bevuto. C'è una locanda da queste parti dove si può mangiare? No, io non credo che c'è. Abitate qui vicino? Ja. Per piacere, vorreste darmi qualcosa da mangiare? Sarei felice di pagarvi. Deve essere duro per voi stare sola. Certo. Tu qualche volta ti senti solo? Qualche volta. Redmond per un certo periodo perde la testa per questa bella prussiana e quindi non ragiona, è meno lucido, e questo fatto cambia le sue sorti, e per la seconda volta una donna lo conduce verso il dramma, perché mentre lui si fa, diciamo, consolare da questa nuova amica, il generale Williamson, che era il destinatario della missiva che lui aveva rubato, viene ucciso. Lui ovviamente questo non lo sa. Quando finalmente decide di rimettersi in cammino, di portare il messaggio a destinazione, il capitano prussiano Posdorf, che lo riceve, capisce che lui è un disertore e capisce che è un impostore. Lo pone di fronte subito a due alternative secche: o essere arrestato e riconsegnato agli inglesi, che lo avrebbero condannato a morte sicuramente; seconda alternativa, arruolarsi volontario nell'esercito prussiano, insomma quella che a scacchi definiremo una mossa forzata. Lui deve arruolarsi, l'esercito prussiano peraltro non è quello inglese, l'addestramento è molto duro, i volontari vengono spediti subito al fronte e subito nelle zone più pericolose. Redmond ormai abbiamo imparato a conoscerlo, insomma è un uomo dalle forti passioni, uno che si butta a capofitto nella vita, però ecco, possiamo dire qualsiasi cosa di lui, gli possiamo dare dell'attaccabrighe, del donnaiolo, è anche vero, ma però è anche uno poco furbo, insomma è tutto tranne che un codardo, il coraggio non gli manca. Al fronte prussiano alla fine si distingue per un comportamento eroico e sprezzante della vita, sembra quasi che abbia sposato la causa prussiana, si rende protagonista addirittura di un salvataggio importante che cambierà le sue sorti, perché si trova nel mezzo di una battaglia cruciale a colpi di cannone e lì lui salva la vita proprio al capitano Posdorf. Quest'uomo non è un irriconoscente, anzi prende Redmond sotto la sua ala protettiva cattiva, gli riconosce un premio in danaro, gli affida un incarico che lo porta lontano dal fronte, dai colpi di cannone, e il lavoro è la spia, un lavoro di spionaggio. Deve farsi assumere come cameriere da un raffinato giocatore d'azzardo francese, un certo Chevalier de Balibari, che in realtà è un francese che vive sotto copertura, e i prussiani sospettano che sia una spia per conto dell'Austria. Insomma, la missione di Redmond Barry è quella: servire quest'uomo, ma in realtà osservarlo e riferire il suo operato al capitano Potsdorf. Adesso, forse nella nostra epoca, con tutti i modi per comunicare a distanza che abbiamo, è più difficile capire come ci si dovesse sentire quando si era lontani da casa, stranieri in terra straniera. E insomma, il cuore di Redmond è tormentato, perché lui è di fronte a questo Chevalier de Balibari, che in realtà abbiamo detto è irlandese, e quindi in qualche modo si sente vicino a lui. Il pensiero di potergli parlare nella sua lingua d'origine gli fa perdere l'idea di fedeltà nei confronti dei suoi protettori prussiani. Signore, io ho una confessione da farvi. Sono irlandese e il mio nome è Redmond Barry. Sono stato costretto ad arruolarmi nell'esercito prussiano 2 anni fa ed ora sono stato messo al vostro servizio dal mio comandante capitano Potsdorf e da suo zio il ministro di polizia. Devo seguire e osservare ogni vostra azione e quindi informarne lo stesso ministro. Lo Chevalier fu commosso quanto Barry dal fatto di aver trovato un compatriota, perché anche lui era in esilio, e una voce amica, uno sguardo, gli fecero tornare di nuovo alla mente la patria lontana. Sta nascendo una sintonia. Chevalier de Balibari apprezza la sincerità di Redmond Barry, anche perché anche lui vive in esilio forzato. Insomma, i due diventano amici e Barry fa il doppio gioco per un certo periodo, cioè rivela ai prussiani elementi insignificanti su Balibari che non svelano la sua identità. Alla fine comunque le cose si mettono male, i due sono costretti a lasciare la Prussia per evitare di venire scoperti. Balibari però, insomma, è uno positivo, ha sempre questo buon umore che lo pervade. Peraltro lui sa quanto il gioco d'azzardo sia diffuso, amato nelle corti di tutta Europa, e di quanto i maestri, diciamo, di questa divertente arte siano apprezzati dai nobili. Insomma, è nata una strana coppia. I due cominciano a girare, Barry apprende dal maestro i trucchi migliori, diventa famoso non solo per la sua fortuna al tavolo da gioco, ma anche per il suo fascino, e anche perché se la cava molto bene con la spada, è amato dalle donne, è temuto dai rivali. Insomma, sta dando la scalata al successo, successo che lo vedrà approdare alla seconda parte della sua esistenza con un altro nome, Barry Lyndon, un nome che lo porterà molto in alto. Però sappiamo che quando si va molto in alto è più facile cadere e ci si fa anche più male. Chuck si vola. Barry Lyndon. Ma chi è veramente Redmond Barry, alias Barry Lyndon? È difficile dirlo, forse impossibile. È un ragazzo scapestrato, di bell'aspetto, attaccabrighe, ingenuo. Però potrebbe anche essere invece un eroe, perché in effetti si è distinto durante il conflitto della guerra dei 7 anni. È un ladro di identità, ma è anche una spia dei prussiani. È un giocatore d'azzardo tra i francesi. E infine diventerà Lord Lyndon. Otterrà questo titolo grazie a un ricco matrimonio. Insomma, 100 identità diverse per un uomo straordinario e terribile, sempre in bilico tra il trionfo e l'abisso, tra il massimo dell'altruismo e la perdizione più profonda. Amante appassionato, ma anche marito traditore, padre amorevole, patrigno violento, un uomo che è stato capace di mettere le mani su una fortuna immensa, ma è stato anche incapace di tenersela. E lui lui il protagonista di oggi, un uomo travolto dal destino, travolto da un continuo altalenarsi di avvenimenti. L'abbiamo lasciato nel massimo del suo splendore, sale da gioco pullulanti nell'Europa della metà del Settecento, luogo dove si incontra la grande umanità, la variegata umanità dell'epoca, nobili, ricchissimi, imbroglioni della peggior specie che cercano di spillare i quattrini agli altri, cioè ai nobili. E lui, al seguito di questo Chevalier de Balibari, giocatore d'azzardo, però per il momento non è diventato particolarmente ricco, anche perché la vita dei giocatori è dispendiosa, è altalenante. Insomma, Barry sta maturando un pensiero che cambierà per sempre la sua già incredibile esistenza. 5 anni nell'esercito e una notevole esperienza del mondo avevano ormai fatto scomparire tutte le romantiche idee sull'amore con le quali Barry aveva iniziato la sua vita. E cominciò a pensare, come tanti gentiluomini avevano fatto prima di lui, di sposare una donna ricca e di alto livello sociale. E così, come capita spesso, questi pensieri presero corpo nell'attimo in cui il suo sguardo si posò su una signora che da allora in poi avrebbe avuto un ruolo importante nel dramma della sua vita. La contessa di Lyndon, viscontessa Bullington d'Inghilterra, baronessa di Castellendon del Regno d'Irlanda. Una donna estremamente ricca e molto bella. Era la moglie dell'onorevole Sir Charles Reginald Lyndon, cavaliere dell'Ordine del Bagno e ambasciatore di Giorgio III presso diverse piccole corti d'Europa. Sir Charles Reginald Lyndon è un invalido, è portato in giro su una sedia a rotelle, è consumato dalla gotta, la gotta che era la malattia dei ricchi allora, perché era la malattia che veniva quando mangiavi troppa carne. Però insomma è un vecchio consumato da tante malattie, ha un figlio, il piccolo Lord Bullington, un bambinetto malinconico molto attaccato alla madre. All'educazione di questo figlio pensa il cappellano di sua signoria, il reverendo Samuel Rant. Barry inizia a corteggiare apertamente Lady Lyndon, anche se lei è ancora una donna sposata, non si preoccupa quando il marito di lei lo affronta apertamente in pubblico, lui insiste, anche perché sa che Lord Lyndon, insomma, se non i giorni, i mesi contati. E infatti poco dopo succede proprio quello che era inevitabile che succedesse: Lord Lyndon muore e la moglie, che era già innamorata perdutamente di Barry, e accetta subito di sposarlo. Trasformazione completa: il giovane, inesperto, squattrinato, giocatore d'azzardo, uomo che vive d'espedienti, Redmond Barry, ha ceduto il posto a un ricchissimo e rispettabile Barry Lyndon, legittimo marito di una donna bella, innamorata e soprattutto ricca fino all'inverosimile. E questo matrimonio dopo un anno è, come dire, rallegrato anche dalla nascita di un bambino. Lo chiameranno Brian Patrick. Barry, il padre, adora questo figlio, si trasforma nel padre più amorevole che si possa immaginare, dedica tutte le sue attenzioni al figlioletto, dedica il suo tempo, lo ricopre d'amore e vuole fargli rivivere quella infanzia meravigliosa che a lui è mancata. Però è attentissimo come padre, ma non certo come patrigno, perché in realtà lui dovrebbe anche occuparsi del figlio di lei, Lord Bullington, e invece il rapporto tra i due da subito è decisamente pessimo. Il ragazzino non sopporta Barry, ha intuito che dietro a questo matrimonio non c'è tanto amore, ma c'è dell'altro, e gli è ostile apertamente, pensa che lui sia interessato solo al patrimonio, al titolo della madre, e che non l'ami affatto. In effetti i fatti suffragano questa tesi, perché dopo pochi mesi di matrimonio Barry comincia a tradire Lady Lyndon con qualunque donna gli capiti a tiro, un po' un compulsivo, nobili che frequentano il loro salotto, oppure anche cameriere che quello stesso salotto invece lo puliscono. Insomma, lui non fa differenza, non gli interessa la classe sociale, anche perché in realtà una donna ricca l'ha già sposata, e questa donna, che è già di natura inclina alla malinconia, Lady Lyndon, comincia a diventare sempre più cupa. I tradimenti del marito la minano, e si rifugia nella cura dei figli, nella religione. Però c'è qualcuno che non si lascia abbagliare dalla vita apparentemente favolosa che sta conducendo Barry Lyndon, qualcuno che non ha bocca, qualcuno che si preoccupa per lui, per il suo futuro. E naturalmente chi si preoccupa? La madre. Ah, Redmond, è una gioia vedere che il mio caro figliolo ha raggiunto una posizione che ho sempre saputo che gli spettava e alla quale mi sono sforzata tanto di educarlo. Il piccolo Brian è davvero un amore e tu vivi con grande sfarzo. La signora tua moglie sa di avere un tesoro che non avrebbe neanche se avesse un duca per marito. Ma se un giorno si stancasse del mio selvaggio Redmond e dei suoi modi irlandesi all'antica, o se morisse, che futuro avrebbero mio figlio e mio nipote? Tu non hai un penny di tuo. Alla sua morte l'intero patrimonio andrà al giovane Bullington, che ti porta ben poco affetto. Potresti essere povero domani e il nostro caro Brian alla mercé del fratellastro completamente. E beh, dal punto di vista tecnico, la madre di Barry ha perfettamente ragione. Lui sta usufruendo delle ricchezze della moglie, ma non le possiede. Allora la madre gli suggerisce di cercare di ottenere anche lui un titolo nobiliare, cosa che peraltro all'epoca non era così impossibile se si era ricchi. E allora Barry si getta in questa impresa anime corpo, finanzia opere pubbliche, organizza ricevimenti sontuosi, recluta a sue spese, cioè in realtà a spese della moglie, una compagnia militare da mettere al servizio del re. Tutto quello che ottiene in realtà è intaccare il patrimonio dei Lyndon, inimicarsi ulteriormente Lord Bullington, il figliastro, e alla fine c'è un alterco terribile tra i due uomini alla presenza di molti ospiti della tenuta, e Lord Bullington denuncia l'operato di Barry e lascia la casa della madre. Una scena forte, una scena terribile. Barry ha dato libero sfogo alla violenza contro il figliastro, lo ha percorso davanti a tutti, non si è trattenuto, ha mostrato un lato certo non nobile, direi quasi spregevole di sé. Insomma, le speranze di ottenere il tanto desiderato titolo vanno in fumo per sempre. Chuck si vola. Barry Lyndon. Barry Lyndon ha dovuto rinunciare alla sua ambizione, quella di diventare un nobile, e allora si rifugia nell'amore per il figlio Brian, lo vizia in tutti i modi, lo vuole sempre accontentare e, in occasione del suo compleanno, decide di regalargli quello che lui desidera di più, che gli ha chiesto decine di volte: un cavallo. Una imprudenza che lui non avrebbe mai neanche preso in considerazione se solo ne avesse immaginato l'esito drammatico. Brian aveva promesso ai genitori di non montare mai a cavallo da solo, e invece una mattina va nella stalla, sale in groppa all'animale che si imbizzarrisce, lo disarciona, Brian batte la testa violentemente, dopo due giorni di agonia muore. E questa tragedia piomba come un macigno su Barry Lyndon, sulla sua casa. Lui è annientato dal dolore, affoga la sua disperazione nell'alcol, passa le sue giornate a bere fino a perdere conoscenza. La moglie tenta il suicidio ingerendo della stricnina, riesce solo a provocarsi una sofferenza terribile. Lord Bullington viene informato dell'accaduto e decide di tornare a casa, chiede soddisfazione dell'accaduto al patrigno. Se mia madre fosse morta, sarebbe stata colpa mia, quasi come se le avessi versato io stesso la stricnina. Poiché ad eterna vergogna del nome della mia famiglia, io con la mia codardia e con la mia debolezza ho permesso ai Barry di stabilire una brutale e ignorante tirannia sulle nostre vite, che ha fatto di mia madre una donna finita, e di sperperare e rovinare il cospicuo patrimonio di famiglia. Ora so cosa devo fare. Signor Redmond Barry, l'ultima volta in cui ci siamo visti, mi avete causato indegnamente lesioni e disonore, in tale modo e di tale vastità che nessun gentiluomo dovrebbe accettare mai senza chiedere doverosa soddisfazione. Anche se è passato molto tempo, sono ora venuto a chiedervi quella soddisfazione. In una rimessa della tenuta dei Lyndon si svolge questo duello con le pistole. Ci sono di fronte due uomini molto diversi tra loro. Lord Bullington ormai è cresciuto, ha coltivato un odio viscerale nei confronti di Barry Lyndon, che è, invece ormai è un uomo distrutto, ha sofferto talmente tanto per la morte del figlio, si è macerato talmente a lungo nei sensi di colpa che non prova più niente, e il duello ha un esito particolare perché il primo colpo lo spara Lord Bullington, che si emoziona e non colpì, spara in aria. Toccherebbe a Barry Lyndon, che appositamente sbaglia la mira, e a questo punto viene chiesto a Bullington: vuoi continuare il duello? Lui dice sì, spara e colpisce l'uomo che ha odiato da sempre. Barry Lyndon è ferito gravemente, e arriva su Barry Lyndon una notizia terribile: per salvarsi la vita deve accettare di subire l'amputazione della gamba. Ma lui ormai sta accettando tutto dopo aver subito la perdita del figlio, non sente più dolore, sembra accettare tutto quello che il destino ha in serbo per lui, è quasi pacificato, è iniziata la sua terza vita. In questo caso, rispetto alle due vite precedenti, è una vita rivolta verso il basso, non ha più sogni di gloria, non vuole potere e nobiltà, deve solo forse espiare la sua vita. Peraltro la dovrà condurre in terra straniera, perché queste saranno le condizioni dettate dal nuovo Lord Lyndon, il figliastro che ha preso in mano la situazione. Lady Lyndon e Lord Bullington sono disposti a versare un vitalizio di 500 guinee d'oro all'anno al signor Redmond Barry, purché questi lasci la casa coniugale e l'Inghilterra per sempre, per mai più farvi ritorno. Si fa presente al signor Raymond Barry che, qualora decidesse di restare in Inghilterra, finirebbe in prigione e nessun finanziatore e nessuna banca accorrerebbero per risanarne i pesanti debiti contratti, perché egli è completamente screditato. Si compie così il destino tragico di Redmond Barry, l'irlandese divenuto Barry Lyndon all'apice della sua fortuna, uomo che è stato bravissimo a conquistarla quella fortuna, ma è stato totalmente incapace di mantenerla, anche perché il destino gli ha voltato le spalle. La sua parabola da ascendente diventa una caduta nell'abisso, colpi d'ala verso il basso. Si torna in Irlanda, in quella terra dalla quale lui era partito a 16 anni carico di belle speranze, e non sappiamo cosa sia stato di lui dopo la partenza da casa Lyndon. E quello che è certo è che pochi uomini al mondo hanno suscitato in chi li ha incontrati reazioni così diverse come è stato capace di fare Barry Lyndon: dallo sconcerto alla comprensione, dalla simpatia all'avversione più totale, all'odio. È stato un uomo coraggioso nelle avversità della vita, anche durante la guerra, encomiabile per la sua incondizionata devozione per la madre. Ha vissuto la tragedia peggiore che si possa vivere, l'amore assoluto per un figlio che poi ha perso, però i suoi vizi non sono stati da meno: egoista senza limiti, privo completamente di morale, arrivista, arrampicatore sociale, con quel suo desiderio quasi parossistico di far parte di una società malata e bigotta, schiavo del denaro e dell'ipocrisia tipiche componenti di quella società. Insomma, per concludere, Redmond Barry, o se preferite Barry Lyndon, è stato un uomo che ha vissuto la sua vita, certo non quella di qualcun altro, però da un lato forse è stato artefice del suo destino, dall'altro è stato anche colpito, insomma, da maledizioni che forse non meritava completamente, e lui ha accettato sempre di pagare le conseguenze dei suoi errori, non si è mai lamentato, tutto sommato è precipitato a testa alta. Se volete mandare dei commenti, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.